Mix 24 di Giovanni Minoli. L'Inghilterra ha detto sì all'uscita dall'Unione Europea con quasi il 52% delle preferenze elettorali. Serve un voto del Parlamento sul divorzio fra Gran Bretagna e Unione Europea. Il popolo britannico ha preso una decisione molto chiara di intraprendere una strada diversa. Il referendum non è legalmente vincolante. Visto che il referendum del 23 giugno 2016 aveva esclusivamente valore consultivo, il governo non può attivare l'articolo 80 del Trattato di Lisbona per dare il via concretamente alla Brexit senza passare per il parere anche di Westminster. Ecco, buongiorno e bentornati a Mix 24 e buongiorno al professor Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, il cui ultimo libro, La democrazia e i suoi limiti, è molto interessante e pone dei problemi. Professor Cassese, lei ha detto che l'Inghilterra ha dato una bella lezione di democrazia al mondo, stabilendo che per uscire dall'Europa non basta il referendum, ma è necessaria una legge del Parlamento. Insomma, si apre un conflitto? Ma l'Inghilterra ha ristabilito il giusto rapporto tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta. La prima prevale sulla seconda. Ecco, però, se per assurdo il Parlamento inglese si pronunciasse a favore di una permanenza dell'Europa, verrebbe ignorata la volontà popolare, anche se era consultiva. Che democrazia sarebbe? In questo caso il Parlamento ha deciso di confermare l'uscita, quindi il Parlamento non si è messo contro il popolo, ma è la decisione del Parlamento che conta. Appunto, ma teoricamente avrebbe sarebbe potuto. Stato un conflitto difficilissimo da regolare. No, perché dal punto di vista giuridico, come ha detto la Corte Suprema americana, senza la decisione del Parlamento il Regno Unito non poteva uscire dall'Unione Europea. Ma insomma il Parlamento inglese è costretto a legiferare a favore dell'uscita, è stato costretto in qualche modo? Sì, perché nelle aule universitarie inglesi si insegna che nel Regno Unito c'è la parliamentary sovereignty, cioè la sovranità parlamentare. E quindi la democrazia rappresentativa deve prevalere su quella diretta, professor Cassese? Certo, guardi, la democrazia diretta integra in momenti stabiliti dalla legge quella rappresentativa. Insomma, il governo di un paese richiede decisioni continue e non si possono interrogare quotidianamente. Prendiamo l'Italia. Noi abbiamo 40 milioni di elettori, che sono quelli che hanno diritto al voto. Le decisioni richiedono studi e conoscenze, sono in una sequenza che richiede lo studio di alternative, compromessi, ipotesi, eccetera. Possiamo tenere tutti i giorni in piedi una macchina in cui non siamo più nell'agorà di Atene, capisci? Naturale. E quindi in qualche modo è stato un errore da parte del governo britannico indire un referendum per l'uscita dell'Europa prima di aver fatto una legge. Io credo che sia stato un errore madornale di cui ora si pentono, non solo per il profilo procedurale a cui lei si è riferito un minuto fa, ma anche per il contenuto. Accurati studi che sono stati fatti di recente sui referendum ultimi, Colombia, Thailandia, Ungheria, Regno Unito, Italia e così via, hanno dimostrato che sempre il popolo ha votato su una cosa diversa da quella che è stata richiesta adesso. Esatto. Quindi capisce bene che il referendum è uno strumento molto complesso da usare. Si presta poco a delle scelte che non siano vuoi il divorzio o non vuoi il divorzio. Certo. Quella è un tema da referendum. Certo, ecco, ma in quali casi il potere esecutivo non dovrebbe lasciare al popolo la decisione per non incorrere in questi pericoli che lei dice? Può fare una certa classifica? Diciamo. Certo, c'è un esempio che posso fare subito che è molto eloquente. Le decisioni sulle imposte, secondo lei, se si fa un referendum sulle imposte, che non le vuol pagare nessuno, ovvio. Tutti dicono. Quindi saggiamente la Costituzione italiana ha escluso il referendum abrogativo in materia tributaria. Ecco, ma a parte la materia tributaria, che è chiarissima, professor Cassese, crede che in Italia sia stato saggio demandare un referendum la decisione sulla riforma costituzionale come ha fatto Renzi? E questo però non dipendeva da Renzi, perché dipende dalla Costituzione. La Costituzione però ha previsto saggiamente che nel caso che la riforma costituzionale sia approvata con la maggioranza di 2/3 del Parlamento, non c'è bisogno di referendum. Se approvato con la sola maggioranza assoluta, come è successo nel nostro caso, la minoranza può, badi bene, può, non deve chiedere il referendum. Quindi il referendum è un fatto eventuale. Il soccombente lo chiede perché vuole un appello, se no accetta. Certo. Ma quindi in definitiva, appunto, abbiamo visto che la riforma costituzionale si è trasformata in un referendum pro o contro Renzi. Quindi che lezione bisogna trarre da questo uso dello strumento referendario? Quello che dicevo prima, che le persone, la gente, la popolazione di solito non risponde alla domanda posta. Faccio l'esempio della Colombia. Certo. Il referendum era sull'accordo con la FARC e riguardava la fine della guerriglia che tutti volevano, sì, che aveva provocato tanti morti, e però è stato bocciato, ma è stato bocciato per un altro motivo, perché si voleva protestare nei confronti del governo. Certo, si sposta l'obiettivo, quindi esatto. Il popolo stesso va difeso dal populismo, secondo lei, se possiamo dire così. Perché, come tante volte è stato scritto, il popolo può sbagliare, è per questo che la democrazia comporta contrappesi, controlli, interventi di giudici, possibilità di appello, ripensamento, aree sottratte alla stessa democrazia. Pensi soltanto a, non so, i funzionari pubblici, perché non vengono eletti? No, uno potrebbe dire, ma eleggiamo gli insegnanti, i medici, i funzionari pubblici, e non vengono eletti perché ci debbono essere delle aree che sono sottratte, certo, alla democrazia. Ecco, ma andrebbero messi dei limiti, per esempio, in fatto di quorum rispetto al referendum? Non penso che sia questa la correzione da fare, perché dobbiamo accettare l'idea che la democrazia non sia il governo, la prevalenza della maggioranza, ma quella della più forte minoranza. Di fatto è sempre così. Quella che noi diciamo maggioranza si verifica veramente in pochissimi casi. Casi. Cioè la minoranza attiva è sempre la minoranza più forte quella che prevale. La democrazia come governo della maggioranza è una bella aspirazione. Per modo di dire, insomma. Sì, ecco, di dire, ecco. Sì. Senta, ma interrogare direttamente il popolo vuol dire anche esporlo, appunto, ai rischi di manipolazione da parte dei lobby. Lei stesso dice, si fanno delle domande e si risponde su altro. Qui c'è l'esperienza californiana che ha dimostrato che la manipolazione della volontà popolare da parte di gruppi ben organizzati che operano come delle falange macedoni, capisce, questa, certo, praticamente porta il popolo, che ovviamente è influenzabile, perché capisce, beh, chiaro, non è che può, non è che tutti, non ha gli strumenti, non ha tutti gli strumenti, ma necessari, vuole, in Italia 40 milioni di persone, come fai a educarle, insomma, certo, ecco. Un obiettivo tendenziale, ma anche un sogno, esatto, ecco. Ma il sempre più frequente ricorso al referendum è il segno di una crisi delle leadership, cioè che si sentono sostanzialmente insicure, è come affidarsi ai sondaggi per decidere, insomma. Senta, questo è un problema che è legato un po', sì, a quello che viene chiamato la liquefazione dei partiti. Sì. Una volta i partiti che cos'erano? Il legame tra popolo e sua rappresentanza, no? Attraverso i partiti si esprimeva una volontà popolare che non era solamente l'elezione, il referendum, ma anche, certo, la vita quotidiana del paese. I partiti stanno diventando sempre di più meri movimenti, sì, e quindi... Ma le primarie in qualche modo favoriscono il riagganciare la democrazia al popolo? Guardi, certamente, ma suppliscono a una carenza, sì, perché i nostri costituenti avrebbero voluto una legge sui partiti per assicurare la sua democrazia interna. Sì. C'è un paradosso. I partiti sono il mezzo della democrazia, ma non sono regolati. Essi stessi democratici. Certo. E quindi quello è un problema. Se non puoi raggiungere la democrazia con uno strumento che non è democratico. Che non è democratico. E a proposito di non democrazia, professor Cassese, prendiamo i 5 Stelle, un movimento il cui centro è la rete. Ecco, è il futuro della rappresentanza o è una fase di passaggio? Non lo credo. Non lo credo, perché la rete... La rete non è un'associazione, i 5 Stelle sono un movimento, è un algoritmo, la rete non è un neppure un'associazione, non hanno uno statuto, o meglio hanno un non statuto, non hanno regole ma hanno contratti. Senta professore, nel suo ultimo libro appunto di cui parliamo, La democrazia e i suoi limiti, lei affronta anche il tema della globalizzazione. Perché la democrazia è messa a dura prova dalla globalizzazione? Beh, perché con la globalizzazione molte decisioni vengono spostate, no? Il WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, decide a Ginevra, la decisione non viene più presa a Washington o a Roma, e quindi il problema è chi esercita il controllo democratico su questi organismi che stanno... E questo è un problema che non è risolto. Come si individua il confine tra la sovranità nazionale e gli ordini giuridici sovranazionali? Perché questo è un grande tema che è proprio sul terreno adesso, insomma. Sì, ma infatti, come le dice, questo è il problema dell'Europa. Sì. Gli stati delegano poteri, ma quello che fanno è che ne conservano in parte il controllo, solo che non li controllano da soli, ma li controllano insieme con gli altri, cioè è l'ipotesi condominio, no? Esatto, ecco, nei paesi occidentali un quarto della popolazione grosso modo non vota. Dobbiamo rassegnarci quindi a vedere, come diceva prima, sostanzialmente i destini politici decisi da minoranze attive. Guardi, il non voto è anch'esso una decisione popolare che io non apprezzo, ma che fa parte della libertà di voto. Non si può costringere le persone a votare. Ecco, non si può costringere? Non potrebbe essere un dovere oltre che un diritto? Dovremmo assicurare che i corpi intermedi, la scuola, le associazioni private convincano le persone che votare vuol dire partecipare alla collettività, alla vita, e quindi... collaborare all'interesse comune. E quindi bisogna maturare una coscienza più profonda dell'esigenza della partecipazione popolare. Esatto. E il populismo in qualche modo rappresenta questo elemento di protesta che non riesce a trovare una strada organizzata, perché non è che la gente ama protestare e basta. No. La gente è intelligente, quindi ama protestare e poi vorrebbe delle soluzioni, appunto. Va bene, grazie professor Cazzese, grazie. 800240024, numero verde 349-238-6666 per gli sms. Allora, Pietrangelo, facciamo un po' di musica. Eccola. Selling these concrete seas. Now she headed east down the boulevard. Sure. Allora. Ci sono giornate in cui tutto va liscio come l'olio, il caffè è tostato al punto giusto, la camicia si indossa con la voluttà di forma, il cielo borbotta ma sono solo gargarismi per poi gorgheggiare d'allegria. E ci sono i tram, gli autobus, la metropolitana che vanno perfetti con una buona digestione e lei finalmente torna. Ha chiamato Anna Karenina, ha voluto questo brano e non l'ha voluto dedicare se non all'olio. It'll be your passenger. Sugar, let me be your passenger. Dedichiamoli a Mario che a casa malato. Lui è malato a casa, io sono malato in studio. Vabbè, comunque, mamma dai. Mia. Vai avanti. Mi sono beccato la febbre, ragazzi. Dai. Allora, visto che stavi parlando di Brexit, Europa, eccetera, allora io ho preparato due o tre cose sull'Europa. Abbiamo un po' di musica? Dai. Allora, Giovanni, qual è l'economia europea che avrà il risultato peggiore nel 2017? Sarà l'Italia, sicuramente, guarda. Bravo. Vado a memoria. La risposta esatta. Allora, la cosa è molto interessante perché l'economia europea, sono usciti molti dati in questa settimana, è in netta ripresa ovunque, è solo paese a risultati deludenti, che è l'Italia. Pensa, l'Eurozona ha messo a segno 14 trimestri positivi di crescita, la fiducia è al massimo degli ultimi 6 anni, le previsioni sono buone, se non ottime per tutti. Pensa che la Spagna l'anno scorso ha fatto più 3,2, si avvia a fare più 2,5, l'Olanda fa più 2, Germania e Francia staranno abbondantemente sopra l'1, forse di più, e l'Italia, molti dicono che farà un misero 0,5. Allora mi chiedo, Giovanni, ma te lo chiedo, ma non è che si è fatto un sacco di storytelling e poi alla fine è tornata la realtà? Forse sì, forse dobbiamo proprio confrontarci con un mondo che avevamo messo da parte. Noi diciamo tutti, no, è colpa dell'Europa, è colpa dell'Europa, gli altri stanno... L'Europa ha le sue colpe, ma noi le nostre. Salamino! Niente elezioni e però mobilitazioni. L'Italia tripolare agita i propri eserciti, quelli elettorali, e il Movimento 5 Stelle, che lavora alla costruzione di una candidatura unica per i meetup. Destra e sinistra che invece se ne vanno in cerca di... mare, profumo di mare. Se ne vanno in cerca di un timoniere. E il grido è sempre alle primarie, sia destra che sinistra. E tu, caro Giovanni, ne sai qualcosa? Perché? Perché? Perché? Perché appunto... ricotta! Perché è con te che Michele Emiliano, governatore delle Puglie, decide di dirlo chiaro. Gli abbiamo dato il là, sì. E ha lanciato la sfida a Matteo Renzi. È vero. Che, è vero. Poveretto, ha sempre il telefono sempre più muto. Comunque, Emiliano si candida alla guida del Partito Democratico e tutta la ragione sociale del partito che fu ditta da Pierluigi Bersani e Massimo D'Alema se la ragiona. Quindi alle primarie, non ci sono elezioni e non potendo mangiare carne, la destra per la prima volta, pensa alle primarie e lancia un carosello di candidature per vedere l'effetto che fa. E che effetto fa? Spira il vento impetuoso di Trump e le Trump-truppen si coalizzano. Da Matteo Salvini a Giorgia Meloni, mettendo tra parentesi Silvio Berlusconi, in attesa delle sentenze di Strasburgo, Berlusconi se la pensa di candidarsi ancora una volta, ma le Trump-truppen, eccitate assai, perché dopo tanto penare, dopo tanto soffrire, dopo tanto lagnare, i sondaggi sembrano premiare il centrodestra. Uno schieramento va da sé unito, affidato a un candidato che sappia unire e sappia governare. Ma la morale qual è? Che dove arriva Berlusconi non arrivano Salvini e Meloni. I giornali di oggi, Giovanni, fanno un nome e ancora una volta te la devi sbrogliare tu. Devi dire qualcosa tu, perché ieri sera ha parlato con te e Luca Zaia, governatore del Veneto, perché appunto sa lui unire. Era calcitrante, ma mi sa che è una candidatura che sale. È una candidatura che sale, sa unire, sa governare, però dice vuole l'autonomia in Veneto, si vuole occupare del Veneto. Veneto ovviamente nel mio cuore, le Venezie però, insomma, chisto che cos'è? Sarà il sole della Padania, ma quel sole lo deve pure occupare. Vabbè, poi se è candidato a essere presidente del Veneto e della Sicilia, già un pezzo di Italia, vero, unita, vero, quella vero, di Zaia. Perché in Sicilia non abbiamo il presidente. Appunto. No, c'è, ma insomma. Mario, un'altra bolla, ce l'hai da malato? Sì, Pink Floyd. Allora Giovanni, stamattina mi sono così dedicato a fare 2-3 conti, come vedi. Quanto costerà agli inglesi l'uscita dall'Unione Europea? Quanto? No? 60 miliardi. Mica tanto. Beh, insomma, infatti. La nostra 300? La nostra 358. 358. Ma dunque, questa è la cifra, 60 miliardi, che gli inglesi starebbero trattando con l'Unione Europea. Sì. La cosa è divertente perché... Bruxelles dice prima trattiamo sul denaro, poi discutiamo di come fare l'exit. Naturalmente, beh, insomma, infatti come... comandano i politici a Bruxelles, no? È noto. La cosa cosa è assai divertente, perché è un po' come andare al pub e ti dicono prima devi pagare, poi eventualmente mi dici che birra bevi, mamma. Allora, e poi questo tu hai visto ieri, Marine Le Pen ha fatto il suo programma, c'è 44 punti, e c'è la Frexit, cioè si discute diciamo dell'uscita della Francia. Ecco, mi è tornato in mente, ho recuperato uno studio che era uscito al World Economic Forum l'anno scorso, 2 anni fa, e diceva sostanzialmente che la Francia avrebbe speso 70 miliardi solo per aiutare le aziende che avrebbero dovuto denominare i loro contratti in una valuta diversa. Vabbè, loro 70 miliardi, quegli altri 40, noi 300, vabbè. Okay. Ma perché noi siamo i più indebitati d'Europa. Ok, grazie Mario. Intanto, per finire, Gloria Guerrera, cosa ha scelto per noi oggi? Oggi una canzone per chi aspetta le catastrofi, per ricordarsi di chi ama. Se bruciasse la città, cantata da Nina Zilli. Ma chi l'ha detto, ma perché non posso più pensare